Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Ma buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Oggi sabato di un lungo ponte, magari molti di voi ci stanno ascoltando in auto, non su un'auto ma accomodato qui accanto a me il mio inquilino preferito Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Non ti sei fatto stregare dal lungo ponte? No, io sono qua e purtroppo il ponte lo posso solo sognare quest'anno. Ma il tuo ponte sono io, dovevi dire. Va bene, dire. Allora tu sei il mio ponte. Vedi? Ti diverti, no? Certo, stai assolutamente. Bene. Sarà mica lavorare, fare un bel programma. È un divertimento, una passione. Bravo, così ti voglio. Allora noi andiamo a sentire i titoli del nostro sommario perché oggi, puntata ricca, mi ci ficco. Andiamo. Regali di Natale a misura di adolescente. Come orientarsi? Famiglie numerose in marcia. Un regalo di Natale che fa bene ai bambini. Allora Alberto, partiamo come la tradizione di questa casa non è un albergo consiglia dalla lettera di un papà. Vuoi anticiparci qualche piccolo dettaglio? Ma, insomma, guarda, vicino Natale. Ci siamo informati, il lungo ponte di Sant'Ambrogio di solito è proprio il ponte dove tutti vanno a cercare i regali di Natale e tra l'altro anche io e mia moglie saremo alla ricerca in questo ponte di dei doni che poi metteremo nella lettera di Babbo Natale per i nostri figli, e abbiamo una lettera proprio in tema, secondo me ci farà molto discutere. Perché? Per i bambini piccoli ci pensa Babbo Natale, no Alberto? E per i bambini grandi ci pensa il Babbo Natale Babbo dei grandi. Babbo Natale dei grandi, che a volte ha bisogno di qualche suggerimento. Andiamo. Questo Natale a nostro figlio verrà regalato un iPhone e un iPod dai nonni. Noi, come genitori, abbiamo ricevuto la richiesta di un nuovo computer portatile. Al di là dei costi elevati che tutti gli adulti devono sostenere per accontentare la fame di tecnologia dei nostri adolescenti, mi domando se tutta questa connettività sia un reale bisogno dei ragazzi o qualcosa che trovano impacchettato come desiderabile all'interno del loro gruppo di coetanei o nei media. Secondo punto, come è possibile che nostro figlio non abbia altri desideri se non gadget elettronici? Sono davvero così cambiate le nuove generazioni rispetto agli adolescenti che noi siamo stati? Secondo voi una mamma e un papà hanno il diritto di interferire sulle richieste e i desideri dei figli? E possono dire sì ad alcune richieste ma anche no ad altre? Alberto, bella domanda. Sì, e chissà quante delle mamme e papà all'ascolto sono proprio indaffarati in questo momento rispetto a cosa dire sì, a cosa dire no. Chissà quanti Babbi Natale in difficoltà ci sono, perché molte di queste richieste messe sulle letterine in realtà fanno davvero spendere un sacco di soldi a chi va a procurare i regali. Per cui può un genitore dire no, per esempio, e poi perché così tanto bisogno di gadget elettronici, così tanto bisogno di connettività? Allora, noi abbiamo un grande esperto che ci aiuta a rispondere a tutte le domande che la lettera del nostro papà ci pone. È in linea con noi il professor Fausto Colombo, ordinario di teoria e tecnica dei media presso l'Università Cattolica di Milano, è autore di molti libri, tra cui ricordiamo Boom, storia di quelli che non hanno fatto il 60 del Rizzoli. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Professore, talvolta sono proprio le richieste dei figli grandi, adolescenti, quelli che magari a cui Babbo Natale insomma sta trascurando un po' perché deve occuparsi dei più piccoli, a farci fare boom. Probabilmente in generale la questione è che abbiamo innescato uno stranissimo processo per cui alla fine ci rincorriamo vicendevolmente nel tentativo di farci contenti a vicenda e alziamo la posta e coinvolgiamo persino gli altri adulti in questo gioco, per cui appunto anche agli adulti bisogna fare regali sempre più sofisticati. E l'elettronica naturalmente è un bellissimo oggetto sofisticato, perché somma di essere abbastanza cara, abbastanza di design, abbastanza di moda e di rispondere a dei desideri che sentiamo come assolutamente necessari, come quelli di relazione, di comunicazione e così via. Forse non sono stato tanto ottimista su questa cosa. Alberto, che cosa si fa l'autocritica, il nostro prof? Ma devo dirti che secondo me il prof ha poi anche tanta ragione, perché se tu guardi, ogni 2 mesi c'è nuova elettronica disponibile con una infinità di prestazioni. Molte volte i figli ce la chiedono a noi genitori, noi non sappiamo neanche qual è lo strumento che stiamo loro mettendo nelle mani, cioè compriamo un po' a scatola chiusa, loro ci danno la marca oppure loro ci chiedono direttamente: dammi i soldi perché voglio cambiare il cellulare. Ed effettivamente noi stiamo dentro un gioco su cui il vero controllo non è né nelle mani dei figli né nelle mani dei genitori, ma probabilmente nelle mani del mercato, che ogni 2 per 3 inventa nuove possibilità, nuovi strumenti. E qua di nuovo mi domando: ma allora che consapevolezza abbiamo come mamma e papà di ciò che finisce nelle mani di un figlio? Siamo realmente attenti al fatto che loro lo usino bene? Oppure, e poi, come diceva il professore, secondo te possiamo dire di no ad un figlio che chiede cose così sofisticate, così costose, oppure no? Tu cosa faccio faresti? L'Alberto Pellai della situazione, cambiamo i ruoli. Sì, si può dire di no se non è necessario, se ad esempio il cellulare è stato cambiato da poco e funziona, è logico che ce ne sarà sempre uno di nuova generazione che fa più cose eccetera, però a un certo punto la famiglia deve dire: ti basta quello che hai, dovrebbe almeno. Professor Colombo, lei è proprio uno straordinario osservatore sia dei ragazzi che del mondo dei media e delle tecnologie. I genitori sono davvero capaci di dire di no, di fare questo lavoro di contenimento delle richieste, o alla fine finiscono un po' intrappolati dalla pressione che il mercato fa su ciascuno di noi? Ho paura la seconda che ha detto. Sì, sono un po'... questa questione della trappola del Natale, adesso non voglio fare lunghi discorsi, ma gran parte dei genitori dei ragazzi di oggi sono boomers, cioè sono persone che hanno conosciuto la prima grande stagione del Natale italiano, quindi hanno vissuto questa idea del Natale come magia e tentano di rifarlo, però ha un côté un po' oscuro. Cioè che noi inseguiamo, senza accorgercene, li compriamo un po' questi ragazzi, no? Salvo poi scoprire, come mi ha raccontato un amico, che dopo aver regalato di tutto al figlio, il primo anno che gli ha chiesto: senti, ma tu cosa vorresti davvero per Natale? Questo ragazzo ha detto: mi piacerebbe un bonsai. Magnifico. E io mi sono venute le lacrime agli occhi quando me l'hanno raccontato, per dire che poi non è sempre vero, non bisogna essere mai assolutisti, però... ecco, per dire che ogni tanto si perde un po' di vista, si perde un po' di vista il bisogno vero. Questa casa non è un albergo. Quando i nostri figli ci chiedono come regalo la tecnologia, Alberto, potremmo dire così, eh? Intanto cominciamo a chiedere ai genitori all'ascolto se vostro figlio vi ha mai chiesto un bonsai, perché vuol dire che siete sulla buona strada, e magari rubiamo quest'idea. Che ma c'ha sai che ad esempio la mia bambina grande, che ha 20 anni, ha questo bonsai che cura, ha avuto un incidente questo bonsai perché è caduto e si è un po' sfracellato, e lei l'ha riparato, e devo dire che lo tiene in camera sua e si è ripreso, e questo è grande soddisfazione per lei e per tutta la famiglia, perché ogni giorno andiamo a vedere se mette una fogliolina nuova. Quindi il bonsai tra l'altro è veramente un regalo anche con un messaggio dentro ad un figlio, perché fondamentalmente è un invito a prendersi cura di qualche cosa che ogni giorno necessita, insomma, di attenzione. Volevamo parlare di computer, professor Colombo, invece adesso parliamo di bonsai. Eh? Così siamo passati dall'elettronica all'agricoltura. Questa però mi piace. Ma io torno al tema, perché Alberto, tu sei stato ad un convegno organizzato da Repubblica la scorsa settimana che esplorava proprio la trasformazione dei consumi dei nuovi adolescenti di quest'ultimo decennio, e so che sei rimasto molto colpito. sentito, infatti me ne hai parlato a lungo sia a me che a Laura Vanossi. Noi sappiamo già tutto e abbiamo già, ci siamo già confrontati, litigati, fatto riflessione eccetera, ma allora raccontalo al popolo di questa casa non è un albergo. C'era anche il professor Colombo che tra l'altro ha proprio esordito nel suo intervento dicendo che lui continuava a voler vedere i ragazzi prima di tutto come ragazzi e non come target. Lì effettivamente c'erano molti esperti e specialisti che parlavano di adolescenza come target di mercato, bersaglio di mercato, e lo facevano anche poi con molta forza, perché i ragazzi hanno un sacco di soldi in tasca da spendere. Fondamentalmente dicevano sono un mercato da 9 miliardi di euro e questi 9 non miliardi sono gestiti direttamente da loro. Un dato che mi faceva molto pensare era che fondamentalmente la gravissima crisi economica che ha interessato tutto il mondo occidentale ha molto interessato le tasche dei genitori, delle famiglie, ma pochissimo quella dei ragazzi. Praticamente se l'anno scorso avevano a disposizione 10 miliardi di euro, quest'anno la contrazione è stata fondamentalmente del 10%, mentre in realtà sul mercato si è abbattuta una crisi molto più potente. E un altro dato incredibile era che le mamme e i papà magari fanno molta attenzione a ridurre le spese che riguardano proprio loro genitori, ma con molta difficoltà invece provano a ridurre le spese dei figli. È come dire che quell'area lì di lasciarli protetti nei loro diritti e consumi è un'area che come genitori si sentono di tutelare nonostante la crisi. Tant'è che dicevano gli esperti, i ragazzi non si sono quasi minimamente resi conto che c'è una grave crisi economica, e interrogati sulla loro possibilità, potenzialità d'acquisto per il tempo a venire, loro si vedono costantemente in crescita come consumatori. Un dato, via di richieste. Ed ecco che secondo me è molto in linea con questa lettera che ci ha mandato il nostro papà, perché effettivamente chiedono quello che vogliono e non si preoccupano di verificare qual è la congiuntura economica in cui versa la loro famiglia. Senti, questo ragazzo tra l'altro un iPhone e un iPod. Tanta roba. Professor Colombo, non è tanto, non c'è una cosa perché che possa... con l'iPhone copri anche una parte delle funzioni dell'iPod, e quindi insomma questo ci sarebbe anche una risposta tecnica, ma so che avete un esperto in studio, quindi io non ci voglio entrare tanto. Volevo dire una cosa su questo tema del fatto che i genitori spendono e che si tolgono, per così dire, non è il solito togliersi il pane di bocca per darlo ai figli. Adesso non voglio fare il moralista. Questa cosa poi genera un effetto terribile. Terribile, perché vuol dire che noi non li facciamo crescere, noi non li mettiamo in condizione di conoscere il mondo, non li prepariamo al mondo. Io vedo i miei studenti che passano dal senso di tranquillità un po' incosciente dell'adolescenza a uno spavento globale, per cui cominciano a preoccuparsi del lavoro, vedono con terrore il proprio futuro e poi si spaventano persino troppo. Cioè, prima sono in una culla di consumi che non vengono erosi da niente, per cui non hanno la sensazione dei problemi. Poi ce l'hanno persino troppa, sono così spaventati che non riescono neanche a reagire, a progettare un futuro, a impegnarsi per il proprio futuro. Quindi io credo che davvero condividere anche sotto Natale l'idea che, guarda, è un momento non particolarmente favorevole, quindi dobbiamo contenere un po' le spese, credo che sia una cosa sana, che loro accettino con grande serenità. Poi magari fanno la scenata iniziale, ma poi passano. Sì. Insomma, un Natale da bonsai, Alberto, questo potrebbe farli crescere, anche se il bonsai, sappiamo, rimane piccolo, è un'arte, no? Quella. È un'arte, e poi tra l'altro ha dentro proprio un percorso concreto che obbliga al prendersi cura, e che quindi, per esempio, un bonsai è davvero una cosa che tu ti devi informare su come ci si prende cura di questo piccolo alberello, di cosa devi fare giorno per giorno, non puoi mollarlo mai, altro che Tamagotchi. Senti, ho scelto il tuo regalo di Natale. Invece, allora, vogliamo dare ai nostri genitori all'ascolto qualche indicazione per accontentare i figli, ma allo stesso tempo farli crescere bene, con qualche no, con qualche limitazione, con qualche paletto? Ma io personalmente direi questo, che intanto la varietà è sempre una grande risorsa, per cui effettivamente se c'è un 100% di richieste tecnologiche è bene far aprire gli occhi a un figlio che la vita è fatta di tante altre cose e con lui aprire una negoziazione, cioè cosa sì e cosa no, cosa possiamo cambiare. Secondo aspetto che mi sembra importante ed è una domanda, credimi, che costantemente mi sento fare da genitori quando lavoro in scuole genitori, in serate con loro, è questa, cioè può un genitore dire non è ancora arrivato il momento di metterti nelle mani un oggetto di simile complessità? E ti ripeto, proprio l'altra sera a Spoleto c'era un genitore che mi chiedeva: ma il cellulare che verrà regalato dallo zio a mio figlio che ha 9 anni, io non avrei mai voluto metterglielo nelle mani, cosa devo fare? Dire allo zio di no. Professor Colombo. E sì, ogni tanto bisogna dire no. Se ci si mettono anche gli zii, sono finiti. Ai nonni, che sono a volte poverini letali in questa cosa. Poi magari sono stati rigidi con te e diventano generosissimi. E ti fanno pure arrabbiare, perché... Esatto, sì, anche perché diciamo una cosa, l'ambiente dei ragazzi è molto tecnologico. E i nostri ragazzi sono fortemente tecnologici e quindi io credo che anche rallentare un po' l'acquisizione per forza dell'ultimo gadget tecnologico e così via sia un po' utile, perché smitizza anche la necessità, no? Questo bisogno crescente, e questo non gli toglie, è bene dirlo, non gli toglie la capacità di essere nativi digitali, come si dice purtroppo oggi, no? Cioè di essere perfettamente sul pezzo per quanto concerne le ultime tecnologie, eccetera. Significa apprezzare in un modo diverso la varietà e anche capire che le cose arrivano poi magari quando uno se le merita, se proprio uno le vuole, fa un lavoretto, non fa mai fatto male a nessuno. Tirarsi un po', rimboccarsi le maniche. Alberto, però, tu punti insieme al professor Colombo sulla varietà. I figli, quando glielo proponi, dicono no, ma a me quelle cose che vuoi tu, che piacciono a te, non mi piacciono, perché hanno, in qualche modo, questa tecnologia ha modificato i loro gusti. E quindi è difficile, no? In un treno in corsa tirare poi il freno a mano è veramente uno sforzo. Come si fa operativamente? Perché al di là dei consigli, che sono di buon senso, anche se profondi, ma operativamente? Guarda, operativamente io direi proviamo a fare dei regali che magari li stupiscono con qualche effetto speciale e puntano però in una direzione completamente contraria a quella della tecnologia. Per esempio, una sera a teatro, un musical con un figlio, che è un'esperienza che con difficoltà puoi fare perché è davvero molto costosa, però se tu gli metti in mano il biglietto molto probabilmente non ti dirà di no, e provare a vedere che cosa succede, che reazione ti dà. Oppure approfittare delle tariffe low cost di una linea aerea e regalare un biglietto aereo se hai un figlio di 17, di 18 anni che lo fa partire al mattino presto da un aeroporto, arrivare in una capitale, stare lì tutta la giornata e poi lo fai arrivare, ritornare quindi, alla sera. Non un viaggio magari, virtuale, no, ma reale. Un viaggio vero, spendi pochi soldi, gli regali proprio l'idea che tuo papà ti fa andare e ti fa fare un'avventura molto incredibile. Secondo me questa è una cosa bellissima. Professor Colombo. Ah, io sottoscrivo, posso farmi adottare, non so, tardi per me. No, sottoscrivo assolutamente, questa cosa del viaggio mi sembra meraviglioso. Aggiungo che per figli appena lievemente più grandi si possono anche addirittura fare dei pacchetti. L'unica cosa che posso suggerire in aggiunta è che magari si regalano 2 o 3 biglietti, visto che hanno sempre amici con cui vanno in giro, eccetera. Insomma, si possono studiare delle cose con altri genitori, cioè si possono veramente inventare tante cose. Però sono soprattutto molto d'accordo con la fantasia. Noi troppo spesso facciamo delle cose semplici per loro, perché questa cosa ci risolve il problema di pensare. Molto spesso siamo noi che non abbiamo tempo per loro e copriamo col rispondere alla prima cosa che ci chiedono questa voglia di sbrigarci la pratica rapidamente. Professor Colombo, io la ringrazio per essere stata con noi. Devo dire che mi associo a lei nella richiesta di adozione per Alberto Pellai, quindi ti trovi il professor Colombo e l'amico. Tanto a casa nostra c'è tanto posto anche per voi. Professor Colombo, allora aggiungerà due posti a tavola. Intanto tanti auguri anche a lei. Buona giornata. Molti auguri a voi, a presto. Adesso Alberto, ti senti gravato da questa... No, vedo che rendete ancora più numerosa la mia già numerosa famiglia. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati insieme e parliamo, abbiamo anticipato, di famiglie stile Pellai. Perché Alberto? Perché tu hai una famigliona, adesso poi che hai anche me, il professor Colombo, direi una super famiglia. Ho quella che ufficialmente si può chiamare una famiglia numerosa, perché da quattro figli in poi questo è il requisito minimo per poter appartenere a un'associazione che è l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, è già stata nel nostro programma anche l'anno scorso. In realtà domani Roma sarà invasa da una processione di genitori e bambini, ce ne sono 500 che arriveranno da tutta Italia e in realtà faranno un'iniziativa che vogliamo far conoscere a tutti, più bimbi, più futuro. In linea con noi c'è Mario Sberna, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Buongiorno Mario. Buongiorno Alberto e a tutti gli ascoltatori. Signor Sberna, allora anche lei sarà in marcia a Roma? Ci mancherebbe altro. Che certo. Cerco di fare, non dico il condottiero, ma insomma sarò là davanti anch'io con i miei bambini e soprattutto con mia moglie, per davvero dire più bimbi, più futuro, come diceva bene Alberto. Ma che cosa chiedete con questa marcia natalizia? Noi siamo solo iscritte, sono 500 famiglie numerose, quindi stiamo parlando di migliaia di persone e più quelli che non si sono ancora iscritti ma che ci saranno. Per cui siamo lì principalmente per far vedere che ci siamo e siamo felici di esserci, cioè testimoniare che è possibile, come Mario, come Alberto, come tantissime altre mamme e papà, aprirsi alla vita e avere la gioia continua di bambini. E certamente questo è un bisogno che il nostro paese ha, che come sappiamo è quello col più basso tasso di natalità in Europa e tra i più bassi al mondo. Poi però è chiaro che siamo lì anche per dire ad una politica che fa di tutto per punirti ogni volta che metti al mondo un bambino, andare a dire a questa politica di smetterla giù le mani dei nostri bambini, perché è ora di finirla di punirci ogni volta che nasce un bambino, perché questo la politica con le tariffe ingiuste, con le tassazioni ingiuste fa. Alberto, anche tu rivendichi questa... Guarda, io devo dire che rivendico in realtà sulla mia pelle, l'avevo anche già detto in un'altra trasmissione, effettivamente una famiglia, secondo me, che ha tanti bambini, nel momento in cui si prende carico proprio nel modo migliore possibile dei propri figli, credo che stia facendo una cosa che è anche molto molto politica. Io per me crescere i miei figli forse è la cosa più politica che sto facendo nella mia vita e della mia vita. Effettivamente vorremmo a volte che la politica potesse guardare anche i bisogni di noi famiglie numerose, perché non lo so, lo sappiamo tutti, ma quando per esempio paghiamo le tasse, il fatto che tu hai uno o quattro figli per uno come me che è un libero professionista non fa alcuna differenza, ma in realtà nel bilancio finale alla fine di ogni mese quattro figli in realtà contano davvero tanto. Signor Sberna, è un problema, immagino, di costi, perché i figli costano, i figli, però le famiglie numerose danno grandissime altre soddisfazioni. Sì, oh no. Se mettiamo sul piatto della bilancia, chiaramente non c'è paragone. Ecco, siete lì a Roma per rivendicare un po' un buco di sostegno, ma anche per dire che... Soprattutto per dire che, perché poi alla fine anche la parola rivendicazione sa... sinceramente non lo utilizzeremo certamente, ecco, perché per dire, però ci sono dei problemi. Alberto ne ha detto uno che è tra i fondamentali, insomma quello che poi comunemente viene chiamato quoziente familiare, e poi ce ne sono tanti altri, che nessuno guarda dietro ad un contatore dell'acqua, della luce, quanti volti, quante persone ci sono, però al di là esattamente di questo, che sono dei problemi perché hanno a che fare con la nostra società, con il futuro del paese eccetera. Prima di tutto dobbiamo dire che sul piatto della bilancia aprirsi alla vita e avere questa sconfinata gioia che i figli danno, davvero qualche cosa che questo paese sta perdendo, sì, e sta perdendo la ricchezza più grande che aveva, che sono proprio i bambini, per cui si va nei parchi e si vedono gli anziani sulle panchine e non ci sono più i giochi, i canti dei bambini. Ecco, insomma, noi andiamo lì per dire che dai, metterci un attimino un po' più di passione verso questa, preoccuparsi magari un po' di meno delle cose, degli oggetti, e occuparsi un po' di più del sorriso, dell'abbraccio, delle carezze, della tenerezza di un bambino, che è qualche cosa di impagabile davvero. Andiamo per dirlo soprattutto questo, certo. Allora, signor Sberna, buona marcia. Alberto, Alberto, tu cosa io fai? Io purtroppo li seguirai col cuore. Li seguo col cuore, credo però che quello che ci ha detto Mario è anche molto molto natalizio, quindi molto ben adeguato alla puntata di oggi. Un abbraccio a lei e alla sua famigliona. Signor Sberna, buon Natale. Grazie a lei e alla sua. Grazie, buon Natale a tutti, anche a Alberto e alla sua. Grazie, arrivederci. Alberto, allora, le famiglie numerose ascoltano musica? Ascoltano musica, e tu lo sai, io sono proprio un appassionato di musica di Natale. E come fate a mettervi d'accordo sui vari generi? Ah, ce n'è un'intera collezione a casa nostra, per cui ci sono quelli preferiti da Jacopo, quelli preferiti dalla mamma, quelli preferiti dal papà. Però decide sempre l'Alberto. No, non è vero, assolutamente. Questo è vero. E infatti lui, che è un appassionato di canzoni di Natale, adesso le sta veramente suonando a tutto volume. E c'è una novità nella nostra collezione che in realtà vogliamo condividere con i nostri ascoltatori. Prova a pensare un CD di Natale dove trovi insieme Katia Ricciarelli, Niki Nicolai, Mattia Bazar, trovi anche moltissimi comici di Zelig, per esempio. I miei preferiti. È in realtà un CD che suona bene e fa molto bene, perché è legato a un'iniziativa molto importante che ci facciamo raccontare dalla signora Anna Maria Andreoli, che è presidente dell'associazione Claudio Moretti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Mi sarebbe piaciuto che Alberto la accogliesse con una strofetta di una canzone di Natale. Alberto, però no, niente, questo no. Però lei, qual è la tua preferita? Però vediamo che, se c'è anche nel CD. Guarda, alcune tradizionali proprio, che tipo Adeste Fideles, oppure mi piace molto Santa Claus is Coming to Town. E poi nel CD ci sono però anche molte musiche originali. Tra l'altro ce n'è una scritta proprio da Cristian Moretti, che si intitola Il sorriso di un bambino, ed è quella forse più vicina al progetto che connota tutto il CD Caro Papà Natale 2. Qual è il vostro progetto, signor Andreoli? Il progetto Caro Papà Natale è nato per rendere l'esigenza di rendere, grazie all'informatica, alla tecnologia, il ricovero ospedaliero dei bambini meno traumatico e meno triste. Bravi, è un'iniziativa magnifica. E in pratica che cosa, come funziona? Ci racconti per bene. I bambini sono già, il fatto di essere ammalati, di essere lontani da casa, li rende tristi, li rende più difficilmente curabili. Se si trovano in un ambiente dove possono giocare col computer come fanno a casa, rimanere in contatto con gli amici tramite Messenger oppure le mail oppure la webcam, oppure se proprio i grandi, i volonterosi, per sentirsi uguali agli altri, vogliono rimanere in contatto anche con gli insegnanti, fare i compiti, poter seguire la scuola, con l'informatica, con i computer possono riuscirci. Quindi noi, realizzando il CD Caro Papà Natale, siamo riusciti, vendendone 13.000 copie, sì, a realizzare 18 aule di informatica in ospedale di tutta Italia. Quest'anno con Caro Papà Natale 2 puntate a 30 aule informatiche. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare un gruppo bancario molto sensibile e molto vicino al territorio e alle persone, che l'anno scorso ha creduto nel progetto Caro Papà Natale, l'ha condiviso, l'ha sostenuto in ogni modo e ha reso possibile la vendita del CD presso tutte le filiali. E in realtà avete avuto molto successo, e già quest'anno credo che siamo i primi a dare questa notizia. Il Caro Papà Natale 2 è già disco d'oro, è stato proprio premiato ieri a Milano, perché è già diventato disco d'oro. Per cui... Dove si acquista, signor Andreoli? Caro Papà Natale 2 si acquista al costo di 10 euro, perché specifichiamo, è un prezzo piccolo per un bel prodotto e un'opera benefica. Si acquista nelle rivendite tradizionali, quindi nei negozi di, sì, di in tutte le 500 filiali del gruppo bancario del Credito Valtellinese, e per chi non potesse trovarlo diversamente sul sito internet www.caropapanatale.it. Allora, buon Natale alla signora Andreoli, presidente dell'associazione Claudio Moretti. Buona giornata, grazie per essere intervenuta. Grazie a lei, buon Natale a tutti, salve. Alberto, noi gli auguri di Natale ce li faremo, intanto buona giornata anche a te. Questo weekend è tempo di alberi, di presepe e di biscotti. Un buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.